Aringa arringa. La solita maledizione della lingua italiana fa che il dizionario non ci sappia e non ci voglia dire se quell'arringa, che non è pesce e molto meno pesce salato e più spesso non è né carne né pesce, abbia a essere dotata di due lettere canine oppur d'una sola. Certo è che il popolo toscano, il qual non conosce le aringhe sciocche ma le salate, e non le seccanti ma le secche, e non le fumose ma le affumicate, queste qui chiama aringhe. Alle altre dunque, per consolazione della loro miseria, doniamo la consonante doppia a titolo rispillatico. E già troppo doppie le furono e le saranno nella loro scempiezza. Niccolò Tommaseo.